Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 19 ottobre, quarta puntata di Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi vi porto in Albania, dove questa settimana sono diventati operativi due centri di trattenimento, identificazione ed espulsione dei migranti voluti dal governo Meloni in collaborazione con il governo albanese di Edi Rama. La collaborazione tra i due governi si è articolata nel corso dell'ultimo anno. Circa a novembre del 2023 a Roma è stato siglato un accordo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Poi all'inizio di quest'anno, del 2024, il Parlamento italiano ha ratificato l'accordo. L'accordo prevede la costruzione e la realizzazione di due centri per l'identificazione, la detenzione e l'espulsione dei migranti maschi adulti soccorsi nelle aree del Mediterraneo centrale da imbarcazioni militari nelle cittadine albanesi di Shengjin e Jader. In questi mesi il protocollo tra Italia e Albania e i centri che ne sono frutto sono stati al centro del dibattito e naturalmente oggetto di non poche critiche. La questione centrale è naturalmente quella delle condizioni dei migranti che vengono detenuti e la cui eventuale domanda di asilo o il transito in Europa sono oggetto di forti restringimenti nonché di procedure piuttosto opache, ma anche altri aspetti sono stati criticati relativamente alla realizzazione dei centri. In questa settimana in Parlamento si è tenuta un'interrogazione parlamentare di cui è stato destinatario il ministro Piantedosi, al quale si chiedeva di motivare gli oltre 60 milioni di commesse legate ovviamente alla realizzazione dei due centri che non sono passate attraverso procedure concorsuali o gare d'appalto. Intanto però i due centri, nonostante la loro costruzione e realizzazione non sia ancora stata completata, hanno ricevuto ancora questa settimana il primo gruppo di migranti, 16 persone provenienti da Bangladesh ed Egitto. Possiamo quindi dire che i centri e il protocollo d'intesa tra Italia e Albania sono diventati pienamente operativi, ma gli aspetti oscuri che li contraddistinguono e che continuano a interrogarci non sono venuti meno. In tutto questo il governo italiano non sembra particolarmente interessato alle critiche relative al protocollo e ai centri in Albania e anzi ha anche incassato il benestare della presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen, che sintetizzando ha parlato di questo esperimento come di uno degli elementi guida della gestione o possibile gestione delle migrazioni in Europa. Questo è l'argomento che vogliamo approfondire oggi per la quarta puntata di Bologna e dintorni, ma prima di entrare nel vivo della discussione ci prendiamo qualche minuto per una breve parentesi musicale. A tra poco. Reply. Questi erano gli Stone Temple Pilots con Interstate Love Song, brano che parla dell'amore di due persone che vivono in due stati diversi, anche se oggi in realtà parliamo della sintonia che lega due stati, Italia e Albania, e del frutto sciagurato di questa relazione, cioè i centri di identificazione, detenzione ed espulsione dei migranti, da poco diventati operativi in Albania. Per approfondire questo argomento abbiamo oggi come ospite Clemente Parisi del Coordinamento Migranti di Bologna. Buongiorno Clemente. Buongiorno a tutti e a tutti. Dunque, inizierei chiedendoti, come sempre facciamo, di aiutarci a fare un inquadramento un po' generale con il trasferimento e trattenimento dei migranti presso il centro di Shëngjin in Albania. È avvenuto pochi giorni fa e diventa pienamente operativo il protocollo siglato tra il governo Meloni e quello di Edi Rama, che formalmente parla di, cito, rafforzamento della collaborazione in materia migratoria tra Italia e Albania. Ci aiuti a capire che cosa prevede il protocollo e come ci si è arrivati? Sì, dunque, si tratta di un accordo che risale all'anno scorso, firmato tra il governo Meloni e un governo sedicente socialista, che prevede che l'Albania ospiti fino a 3.000 migranti che vengono soccorsi e recuperati nell'area di competenza italiana in dei centri che sono stati costruiti dall'Italia, e l'Italia si impegna a sottoporre questi migranti a una procedura accelerata di valutazione della domanda d'asilo. Quindi tutto avviene sotto la giurisdizione italiana, ma sul territorio albanese, o almeno questo è dato sapere in teoria. L'idea è che in questi centri finiscano maschi adulti provenienti da paesi considerati sicuri, con una prima selezione che avviene a bordo delle navi. Per esempio, da quello che ci è dato sapere, i 16 che sono stati trasferiti qualche giorno fa vengono da paesi come l'Egitto e il Bangladesh. Per fare questo il governo italiano ha costruito in Albania un hotspot, un CPR, dove finiranno i migranti che riceveranno il diniego e che dovranno essere rimpatriati, e un carcere, per una spesa di centinaia di milioni di euro, e si prevede poi una spesa di altrettanti milioni di euro per mantenerli e per renderli operativi nei prossimi anni. Ed è un accordo questo che fa parte della strategia generale del governo di esternalizzazione delle frontiere, che poi sostanzialmente vuol dire fare in modo che i migranti non arrivino mai fisicamente al confine con l'Italia. Ed è un accordo che va ad integrare quella strategia dei porti chiusi, che è stato un chiodo fisso di questo governo, così come dei governi precedenti. L'ultimo caso, nel decreto immigrazione che è stato approvato qualche giorno fa, prevede ulteriore stretta sui salvataggi in mare. Evidentemente si tratta di una nuova soluzione che punta anche ad aggirare i problemi politici e anche legali che ha avuto quella politica, e al momento sta ricevendo l'appoggio incondizionato da praticamente tutti, a partire da von der Leyen, che la considerano come qualcosa che andrebbe ulteriormente sperimentato. Anche qualche settimana fa Starmer, che è il presidente laburista inglese appena eletto, è venuto personalmente a Roma a parlare di guerra e di armi all'Ucraina e a complimentarsi con Meloni per la nuova strategia. E di fatto questa è la prima volta in assoluto che in Europa si attua una procedura di questo tipo, portando i richiedenti asilo in un territorio ex europeo, e tra l'altro avviene tutto nella più totale opacità. I migranti che sono stati trasferiti hanno viaggiato su una nave militare, con un viaggio che non è stato documentato dalla stampa. Non si sa se questi centri sono pronti e hanno i servizi oppure meno, non si sa se i rimpatri potranno effettivamente avvenire, come potranno avvenire, e così via. Quindi c'è da aspettarsi che questo sia solo un assaggio di quello che sarà poi l'effettivo funzionamento dei centri, cioè una scatola nera. A proposito di opacità, molti sono gli aspetti oscuri che caratterizzano il funzionamento di questi centri realizzati in Albania. Si è molto discusso in questi mesi del finanziamento pubblico e dei bandi per la costruzione e gestione dei centri. Queste procedure sono state criticate per aver presentato non pochi aspetti, diciamo, sì, oscuri e per la scarsa trasparenza di cui sono stati oggetto. Ci sono però anche questioni legate alle condizioni dei migranti trattenuti, per esempio riguardo alla concreta possibilità di agire i propri diritti legali e le domande di asilo. Ci aiuti a fare chiarezza su questi aspetti? I problemi giuridici, per così dire, sono tantissimi. Probabilmente dovremmo stare qui tutto il giorno per elencare tutte le norme con le quali si intravedono dei problemi di compatibilità. Sono norme del diritto internazionale, norme della stessa Unione Europea, leggi nazionali italiane, la Costituzione italiana. E ovviamente chi è esperto di questioni giuridiche in questi giorni le sta mettendo in fila e sta mettendo in evidenza il fatto che questi trasferimenti e gli eventuali rimpatri potrebbero diventare sostanzialmente dei respingimenti collettivi, quindi violare il carattere individuale della domanda di asilo e della valutazione della domanda d'asilo. C'è poi la questione dei cosiddetti paesi di sicuri, perché in Europa ogni paese, seguendo una direttiva, stabilisce quali sono i paesi sicuri, cioè quelli dove in teoria sarebbero rispettati i diritti e la democrazia, ed è una lista che dovrebbe servire ad accelerare le valutazioni dell'asilo. È una lista completamente arbitraria, anzi credo sia il caso emblematico dell'arbitrio al quale è sottoposta la vita dei migranti in Europa. In Italia nella lista ci sono paesi come la Tunisia, l'Egitto, il Bangladesh, ed è una lista contestata da ogni parte, anche dagli stessi tribunali italiani e dai tribunali internazionali, l'ultima la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza. Però al di là di questi, diciamo, di questi aspetti giuridici, ci sono altri problemi, oltre alle questioni di trasparenza rispetto alle commesse e agli appalti per la costruzione dei centri, c'è un problema di quello che succederà dentro i centri. Dobbiamo considerare che sono dei centri che sono stati costruiti in Albania, che costeranno molto di più per ogni migrante di quello che sarebbero costati in Italia. In teoria dovrebbero fare le stesse cose che avrebbero fatto in Italia. Da quello che dicono molti esperti, dovranno riportare in Italia quasi tutti i migranti, perché ci sarà bisogno di una convalida dal Tribunale di Roma che potrebbe esprimersi negativamente per le procedure accelerate. A questo punto è chiaro che l'unica ragione per cui questi centri sono in un paese extra Unione Europea è evidentemente quella di costruire una sorta di Guantanamo italiana per i migranti, cioè un posto che sia lontano, che non permetta alcun tipo di sorveglianza o di controllo e che permetta di fare le procedure accelerate in modo sommario, in modo arbitrario, riducendo al minimo l'assistenza legale che i migranti possono ricevere e quindi potendo aggirare le normative europee italiane. Sì, sembra un po' riproporsi il copione visto con i lager, con i centri costruiti in Libia, per cui, come dicevi tu, si esternalizza la frontiera e si fa fuori dall'Europa quello che formalmente non si potrebbe fare in Europa. Ma tornerei ai rilievi che sono stati esposti in seno alle istituzioni. Ne facevi cenno tu stesso parlando dei paesi sicuri e menzionando anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Vorrei chiederti, sul piano istituzionale, per esempio in seno all'Unione Europea, esiste un dibattito concreto in tema di migrazioni, diritti e condizioni dei migranti? Non so se si può parlare propriamente di dibattito sul piano istituzionale. È molto probabile che, come giustamente sottolineavi, emergeranno dei problemi, saranno sollevate questioni da tribunali internazionali o nazionali, e ovviamente questo però avverrà con i tempi dei tribunali, che sono tempi lunghi. Però non è un caso che mentre gli esperti di diritto e le associazioni appunto mettevano in evidenza tutti gli aspetti problematici dell'accordo, von der Leyen molto candidamente ha inviato una lettera ai leader europei in vista del Consiglio europeo, in cui dice: dobbiamo sperimentare questa nuova pratica dei centri fuori dall'Unione Europea, parlando poi di una proposta di norma sui rimpatri e dicendo che il caso Italia e Albania dovrà servire per trarre indicazioni pratiche. Quindi c'è questo effetto di sperimentazione che non va sottolineato dal punto di vista politico per quanto riguarda ciò che si muove in Europa. Potranno dovranno intervenire i giudici e il diritto, ma rimane il fatto che i tribunali hanno tempi lunghi e quindi nel frattempo avremo migliaia di migranti che dovranno subire questo trattamento. Poi attraverso queste sperimentazioni, che ormai ogni volta in Europa si trova il modo per spostare l'asticella dell'attacco ai migranti sempre un po' più in là. Ora, se guardiamo all'Unione Europea, a me pare che ci sia una convergenza quasi assoluta intorno all'attacco ai migranti e all'attacco al diritto d'asilo, che mette d'accordo i governi europei, democratici e autoritari che siano, e questa convergenza è stata chiaramente rafforzata dallo scenario di terza guerra mondiale in cui ci troviamo. Durante le elezioni europee di qualche mese fa, per esempio, il tema delle migrazioni è stato uno dei temi principali, e mi ricordo che poco prima delle elezioni si era addirittura gridato al miracolo, perché l'Unione Europea era riuscita ad approvare il patto sulla migrazione e l'asilo. È stato approvato un pacchetto di norme che da qui a qualche anno dovrebbe tradursi in centri di detenzione per i migranti, in meccanismi di selezione sempre più arbitrari, con meccanismi di screening sempre più sofisticati. C'era un problema con i ricollocamenti, problema per eccellenza sul quale gli Stati membri dell'Unione Europea non riuscivano a mettersi d'accordo, e l'hanno risolto accettando che chi non vuole ospitare migranti può pagare i muri di confine, il filo spinato, tutte le infrastrutture e la costruzione dei centri. Per il resto, con quel patto hanno puntato praticamente a smantellare completamente il diritto d'asilo. Ci sono i dinieghi immediati delle domande, tutta una serie di incentivi all'esternalizzazione, cioè a quella serie di accordi con cui si pagano profumatamente i dittatori del vicinato, da Erdogan ad Assisi, per arruolarli come guardiani dei confini. Bisogna dire, tra l'altro, per inciso, che in questo l'Italia, in questa strategia dell'esternalizzazione, che è una delle strategie principali che l'Unione Europea sta provando ad adottare, l'Italia è sempre stata all'avanguardia, soprattutto perché a partire dall'accordo con l'Egitto di qualche mese fa, per esempio, quando si firmano questi accordi ormai non si discute solo di migranti, si discute di molto altro, no? Si discute di mega progetti per produrre energia pulita in Africa per la transizione energetica, si discute di partenariato per il commercio, di equilibri politici sconvolti dalla guerra, cioè si parla di affari che sono un po' l'altra faccia dell'esternalizzazione, che chiude da una parte i migranti, però dall'altro lato apre ai capitali e usa le vite degli uomini e delle donne migranti come una merce di scambio, e il piano Mattei per l'Africa sta esattamente dentro questa cornice. Tornando alla questione che tu ponevi, mi pare che la situazione sia questa, cioè che abbiamo da una parte i migranti che continuano a sfidare le maglie strette dell'Europa, che continuano ad arrivare in massa e continuano ad usare l'asilo politico come uno strumento per rimanere in Europa. Questa è una situazione che è destinata a rimanere tale, soprattutto con la guerra, con la crisi climatica che stanno investendo in maniera brutale l'Africa. Banalmente, mentre si portavano 16 migranti in Albania qualche giorno fa, a Lampedusa ne arrivavano un migliaio in una sola giornata. E dall'altra però, appunto, ci sono risposte istituzionali che attaccano l'asilo e che fanno la guerra ai migranti con le loro politiche. In generale adesso non c'è un solo governo europeo che non stia facendo letteralmente la guerra ai migranti, basta aprire ogni mattina il giornale per trovare notizie di questo tipo, dalla Germania ai Paesi Bassi, alla Polonia, agli Stati Uniti, alla Francia che dice che vorrà riformare i ricongiungimenti familiari. Quindi mi pare una situazione abbastanza compatta da questo punto di vista. Poi è chiaro che, come menzionavi tu, ci sono sicuramente degli intoppi giuridici o anche politici in cui incappano queste misure, così come ci sono organizzazioni che fanno un lavoro di critica e provano a costruire una risposta. Ci è rimasto poco tempo, io voglio approfittarne per farti un'ultima domanda. Sono passati ormai oltre 2 anni dall'insediamento del governo Meloni, e quali siano le posizioni delle forze di maggioranza e dell'esecutivo, ma certamente non soltanto le loro, sul tema delle migrazioni è noto. Ovviamente pensare che si tratti di mera demagogia sarebbe fuorviante. Ci aiuti in un minuto a fare un bilancio di questi 2 anni ripercorrendo nelle tappe più significative? Sono assolutamente d'accordo che non si può derubricare a demagogia, non si può fare un bilancio di 2 anni di politiche contro i migranti senza tenere conto dello scenario di guerra che si è aperto a partire dalla guerra in Ucraina e poi con il genocidio a Gaza. È chiaro che il razzismo istituzionale, no, era una realtà anche prima della guerra, anche prima di questo governo di destra, ma è vero che lo scenario di guerra ha reso il controllo del movimento dei migranti e del lavoro dei migranti un tema su cui si sono sperimentate nuove forme di autoritarismo, nuove forme di coazione, le si è scaricate sugli uomini e sulle donne migranti. Questo a volte è avvenuto molto chiaramente, sotto i riflettori, con tutta una retorica razzista che conosciamo bene, gli attacchi alle ONG dei salvataggi, alla legge Cutro, anche il decreto sicurezza che hanno approvato di recente. Altre volte è stato un attacco meno plateale, lo hanno vissuto i migranti e le migranti sulla loro pelle e magari hanno avuto anche difficoltà a trovare solidarietà e appoggio al di fuori. Se dovessi trovare un filo rosso, sarebbe sicuramente il tentativo di imporre ai migranti una specie di alternativa tra la morte in mare e lo sfruttamento e il ricatto che invece li aspetta se riescono ad arrivare in Italia. Quelli che arrivano qui non, per questo governo non devono nemmeno poter pensare di potersi costruire una vita, devono essere costretti ai lavori più poveri, ai lavori più precari e sotto ricatto, ed è un ricatto tra l'altro doppio per donne migranti che magari vediamo scene in cui vengono accolte, no? Come è successo con la nave che ha portato gli uomini in Albania, ma poi le donne migranti che sono qui sono quelle che si ritrovano con permessi di soggiorno che dipendono completamente da quelli dei mariti o dei padri, oppure questo governo che insiste che per escluderle dall'assegno unico, tanto che Giorgetti ha detto di voler litigare con l'Europa su questo. Per una lunga stagione, dopo la legge Cutro che ha segnato, diciamo, il cambio di passo decisivo, sono stati i CAS e i CPR. Sono diventati un po' l'epicentro delle lotte dei migranti perché quello a cui abbiamo assistito è stato uno smantellamento sistematico delle forme diffuse di accoglienza per ammassare i migranti in grossi centri. A Bologna, ad esempio, i migranti che sono nel centro Mattei, quelli che sono nel centro di Ozzano, non hanno mai smesso di denunciare le condizioni terribili dei centri. Giusto un esempio per far capire qual è l'andazzo, addirittura ad Ozzano e in altri posti dell'Emilia Romagna ci sono migranti che hanno avuto lo status di protezione internazionale e da un giorno all'altro sono stati minacciati di essere sbattuti per strada senza poter accedere alla seconda accoglienza. E questa è una cosa inaudita, ma è che è venuta fuori solo grazie alle lotte dei migranti e che è stata parzialmente risolta solo grazie alle lotte, lotte che tra l'altro adesso sono dentro il mirino del nuovo decreto sicurezza, evidentemente, che vorrebbe rispondere a questa stagione punendo con il carcere fino a 6 anni le proteste dentro i CPR e dentro i CAS. Ci sarebbe da fare un bilancio complicato, probabilmente più articolato di questo, tenendo conto che questi attacchi hanno avuto un effetto sulle lotte dei migranti e sull'organizzazione dei migranti, rendendola molto più difficile. Soprattutto però credo che dovrebbe essere un bilancio che parte da una cornice più ampia, che non è solo una cornice italiana, ma che veda la guerra contro i migranti in Europa e oltre l'Europa dentro lo scenario di terza guerra mondiale in cui siamo e mi sembra che sia un po' questa anche la cornice da cui partire per costruire un'opposizione a questo quadro cupo e un po' desolante che abbiamo disegnato oggi. Clemente, io ti voglio ringraziare per quella che vorrei definire una bella chiacchierata, ma che invece è una terribile fotografia dei tempi che corrono. Grazie mille, Clemente. Grazie a voi. Noi ci sentiamo sabato prossimo con Bologna e dintorni sui 103.1 FM, sempre su Radio Città Fucico. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma